Alors, où est-ce qu'on sort? On sort pas. On sort pas. Hein? On reste ici. On peut boire un coup ici. Ah bah oui, on peut boire un coup ici. Thank you. des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, là-bas sur le soir. Stamattina appena alzato, bella ciao ciao ciao, stamattina appena alzato, io mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao ciao ciao, se io muoio da partigiano, mi dovete seppellire. Seppellire sulla montagna, bella ciao ciao ciao, stamattina sulle montagne, sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente che sta mirando, bella ciao ciao ciao, e la gente che passeranno e ti diranno, che bel fiore. Stamattina appena alzato, il letto un po' un figlio del roi, o corra prada tristesse, al plore nite giù, son medone tu, al plore tu giù, a gian Dio signor, viene a dire la pranzessa, che ti apporta le spuai, dolorosa. Oh signor, dove siamo? Calo sole, io brillerai, le stia celebra, gli ascende sul mappanetto. Rubia, gian Dio signor. No.